Essere e benessere di Nicoletta Carbone. L'aereo decolla e le orecchie si tappano. Capita anche a voi? E che fate? Deglutite, masticate, vi tappate il naso, cercate di compensare? Intanto, buongiorno da Nicoletta, benvenuti a voi, alle vostre orecchie. Buongiorno al dottor Andrea Franzetti, primario di otorino laringoiatria all'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo. Buongiorno. Che è qui in studio con me. Buongiorno. Dottore, perché ad alcuni l'aereo fa questo effetto? E una cosa simile può capitare anche senza salire così in alto? Sì, non è tanto un problema di altezza quanto di squilibrio pressorio, per cui noi abbiamo questo canalino che si chiama tuba, che collega l'orecchio col naso, di cui abbiamo spesso parlato, che non si apre in tempo o non si apre del tutto, proprio perché c'è una pressione che varia. Ormai tanti aerei sono già pressurizzati, però succede a chi magari qualche difetto, magari al raffreddore oppure al naso chiuso, questa tuba che funziona di meno, che tende a far fatica ad aprirsi. Allora aumenta la pressione all'interno dell'orecchio, è come se noi avessimo una sensazione di ovattamento, fino ad arrivare a un dolore anche a volte. Quindi un viaggio in aereo può darci informazioni sul nostro orecchio, sul nostro udito? Possiamo usarlo un po' come una sorta di test? Assolutamente, ci dà un'indicazione importante sulla salute del nostro orecchio e anche sul nostro grado di respirazione. Noi continuiamo a dire orecchio, ma in realtà ne abbiamo due. Certo. La domanda è: perché abbiamo due orecchie? Tre possibili risposte che ci darà il dottor Franzetti, scegliete quella che secondo voi è quella giusta per ricevere a casa, in collaborazione con Rizzoli.it, La tua voce può cambiarti la vita. Allora, via con le risposte. Prima risposta: abbiamo due orecchie perché? Allora, la prima risposta potrebbe essere che abbiamo due orecchie per percepire la direzionalità, cioè la parte da cui arriva il suono, se da destra, a sinistra, davanti, di dietro, e quindi orientarci. Seconda. La seconda potrebbe essere perché con un orecchio solo, la nostra corteccia cerebrale, che è il punto dove noi comprendiamo quello che sentiamo, non sarebbe in grado di comprendere tutte le parole. La terza possibilità. La terza potrebbe essere che siccome noi nel cervello abbiamo un emisfero, cioè una parte che è prevalente, nell'orecchio della parte prevalente percepiamo i suoni più acuti, mentre invece in quello controlaterale, cioè dall'altra parte, i suoni più gravi. 800 24 00 24. Perché abbiamo due orecchie? Scegliete tra le tre opzioni suggerite dal dottor Franzetti. La prima risposta corretta riceverà, in collaborazione con Rizzoli.it, La tua voce può cambiarti la vita. Chi è? Orecchio. Ah, dottor, c'è un po' di cerume dentro l'orecchio, non c'è sede. Bene, vediamo un po'. Ammazzo, chiami cerume, questo è fango. Tu sei sordo. Ah, dottor, ma orecchio mica è questo. È quest'altro. Dici? Vediamo. Dai, è peggio, lavaggio, col sapone. Allora, dottor Franzetti, dato che oggi vogliamo essere tutto orecchie, imparare come prenderci cura del nostro udito, meglio iniziare come si deve. Tante volte basta un tappo di cerume per farci avvertire quel senso di ovattamento che, se in parte ci risparmia e ci attutisce il fastidio, ad esempio, della TV dei vicini, sempre al massimo, o rende meno antipatico il suono della sveglia, non è certo una sensazione piacevole. Lavarsi le orecchie, quindi, dottor Franzetti, sì, come? Sì. Acqua e sapone, come diceva. Direi una cosa prima, nel senso che a volte mi è successo di aver avuto non un ringraziamento, ma un rimprovero da parte di un paziente a cui ho tolto un tappo di cerume. Perché? Perché questo paziente lavorava in mezzo al rumore. E quindi una volta che era io gli ho tolto, era una difesa naturale. E quindi tante volte il tappo di cerume non è nient'altro che una difesa naturale che si forma. E quindi magari prima di togliere il tappo di cerume cosiddetto asintomatico, che non dà disturbi, sarebbe il caso di chiedere alla persona: ma a lei va bene sentire così poco? È pronta? Certo. Invece la domanda, diciamo, giusta che ponevi è questa. L'importante è non entrare troppo nel condotto uditivo qualsiasi cosa noi facciamo. perché all'interno del condotto c'è già una situazione fatta da delle piccole ciglia che spingono il cerume verso l'esterno, e se noi spingiamo troppo in senso contrario liberiamo la parte esterna del condotto uditivo, ma non facciamo nient'altro che accumulare in fondo al condotto del cerume che poi formerà il tappo. Quindi l'ideale è lavarsi acqua e sapone fin dove arriva il dito. E i coni invece che vengono usati? Ma i coni, diciamo che in tanti casi svolgono la loro funzione, ma in tantissimi casi lasciano dei residui in fondo al condotto uditivo, soprattutto se non sono usati correttamente, che poi richiedono a volte di essere asportati, a volte anche in pronto soccorso. Allora, le orecchie sono pulite, ma come si comportano? Come interagiscono agli stimoli? Ci sono tante situazioni nella vita di tutti i giorni che possono fungere un po' da test, che ci possono fornire informazioni utili per prenderci cura delle orecchie, in modo particolare del nostro udito. Siamo schiavi, questo non è il solito monologo sul telefonino, questo è un monologo, se così possiamo chiamarlo, sull'ansia che ci provocano. Cioè, uno esce di casa... Ci avete mai fatto caso? Cosa vi succede quando vi rendete conto che avete dimenticato il cellulare a casa? Tu scendi? Ho dimenticato! Mazza! L'ho dimenticato! Ho dimenticato il cellulare! Vai nel panico! Gente che parte con la macchina, se parti da Roma per andare a Milano o viceversa, facciamo da Roma a Milano, se arrivi ad Orte e ti rendi conto che non hai il cellulare, torni indietro! Torni indietro! Siamo schiavi di questo cellulare! Forse ascoltando Fiorello qualcuno dei nostri ascoltatori dirà: dove l'ho messo? Ecco, ma noi non parliamo dell'ansia che ci può dare l'idea di aver dimenticato il cellulare a casa, ma una domanda potrebbe essere: molti usano gli auricolari, sentite meglio con gli auricolari o quando appoggiate il vostro cellulare alle orecchie? Dottor Franzetti, questa può essere una domanda che ci dice qualche cosa della salute del nostro udito? Diciamo che sicuramente se si appoggia al cellulare tendenzialmente si tende a sentire meglio, ma per altri fattori di trasmissione, non tanto per la salute dell'orecchio. Il problema è l'uso che facciamo di questi dispositivi, come il cellulare, come il computer, perché anche se non c'è una dimostrazione oggettiva validata scientificamente, però ci sono già delle evidenze scientifiche parziali del fatto che per esempio l'utilizzo del cellulare provoca attraverso il campo magnetico, quando noi lo appoggiamo all'orecchio per sentire meglio, un surriscaldamento della coclea, che è la parte interna dell'orecchio, e per telefonate molto lunghe che durano magari più di 10 minuti questa coclea si surriscalda, va incontro a uno stato di sofferenza, e se diventa cronico l'utilizzo in maniera prolungata delle telefonate col cellulare appoggiato all'orecchio, nel tempo può andare incontro anche a un danno uditivo di tipo neurosensoriale e progressivo, quindi dare un danno all'udito. Questa è la ragione per cui, se un orecchio funziona bene, l'ideale sarebbe usarlo o in viva voce o con l'auricolare, o comunque non attaccato all'orecchio, per esempio. Ma la stessa cosa succede con la cornetta del telefono normale, no? Quando ci si stacca c'era l'orecchio, quando si parlava, noi usavamo ancora il telefono e si parlava con l'amoroso o col moroso, magari alla sera, e si arrivava ad avere quell'orecchio bello caldo, quasi rosso. Lì non, la coclea non si riscaldava, batteva il cuore, semmai. Ecco, io non conosco studi che abbiano indagato la cornetta del telefono classica. Ormai è caduta un po' in disuso. Però penso di no, perché la cornetta del telefono non emette un campo, certo, magnetico così ravvicinato. E a proposito di cellulare, surriscalda la coclea, ma nel lungo periodo può produrre altri effetti. Ne parliamo col dottor Ivano Iavarone, che è primo ricercatore dell'Istituto Superiore di Sanità. Buongiorno dottore, benvenuto. Buongiorno a tutti. Dottore, riguardo alla relazione tra esposizione da cellulare e rischi per la salute, in particolare i rischi di insorgenza di patologie tumorali, il Consiglio Superiore di Sanità, in linea con gli studi dell'Agenzia Internazionale della Ricerca sul cancro e in accordo con l'Istituto Superiore di Sanità, invita al principio di precauzione. Cosa significa? Rischiamo o non rischiamo? Vede, dottoressa, le conoscenze attualmente disponibili e complessivamente non sembrano giustificare una particolare preoccupazione in termini di rischio tumorale associato all'uso del cellulare. D'altra parte però bisogna sottolineare che non è anche possibile escludere completamente che vi siano effetti cancerogeni legati soprattutto ad un uso intenso prolungato del telefono cellulare. Siamo chiaramente in una situazione di incertezza delle evidenze. In questo contesto, fattori quali l'enorme utilizzo dei telefoni cellulari, la carenza di dati epidemiologici su durate d'uso superiori ai 10-15 anni e in particolare l'assenza di evidenze sull'infanzia, rendono necessarie proseguire e effettuare nuove ricerche. Nel contempo, però, occorre invitare all'adozione di semplici comportamenti individuali di tipo prudenziale. Per questo invitate al principio di precauzione, perché non avete dei dati che dicono dopo 10 minuti tutti i giorni, anche perché il cellulare, ormai tutti hanno il cellulare, è molto diffuso ed è una diffusione che ha raggiunto dei numeri molto alti in brevissimo tempo. Assolutamente sì. C'è poi il fatto che noi adulti l'abbiamo iniziato ad utilizzare, quelli della nostra generazione, quando eravamo già grandi, quindi il nostro organismo era arrivato a completa maturazione, mentre l'età media di inizio di consumo, di utilizzo del cellulare si sta abbassando sempre di più. Quindi attenzione ai bambini, si vedono anche bambini l'ultimo anno dell'elementare, i primi anni delle medie, cellulari muniti che tranquillizzano sicuramente questo guinzaglio tecnologico alle mamme e i papà, però insomma la ricerca non ci sa dire quali sono gli effetti che può produrre in un organismo così giovane. No, e infatti come spiega il Ministero della Salute nel suo recente comunicato stampa, i consigli precauzionali sull'uso del cellulare dovrebbero proprio riguardare soprattutto i bambini. Questo sia per la carenza appunto di studi sull'infanzia, sugli effetti a lungo termine, che potrebbe essere appunto l'età infantile maggiormente suscettibile alle radiofrequenze, ma anche per la recente grande diffusione, come diceva lei, del cellulare tra i più giovani. Certo. Il che significa anche prevedere l'educazione ad un utilizzo non indiscriminato, per esempio, ma limitato a situazioni di reale utilità e necessità. A tal riguardo il Ministero della Salute avvierà una campagna di informazione sulla base delle ultime relazioni degli organismi scientifici internazionali, proprio per sensibilizzare e indirizzare un corretto comportamento, un uso appropriato del telefono cellulare, proprio in particolare tra i più giovani. Io, se posso aggiungere una cosa, vorrei sottolineare, per comprendere meglio la questione, che è opportuno differenziare il concetto di prevenzione e di precauzione. Sì. Evitare l'uso del cellulare durante la guida di veicoli è un chiaro esempio che ha un significato preventivo in termini di benefici per la salute, perché è accertato che l'utilizzo del cellulare durante la guida aumenta molto il rischio di incidenti. Invece il consiglio di adottare misure cautelative ha invece un significato precauzionale che si utilizza proprio in situazioni di incertezza delle evidenze disponibili, proprio quando non è chiaro quali siano i benefici associati alla limitazione dell'esposizione. La ricerca sta lavorando per voi, per noi, nell'attesa usiamo il buon senso. Grazie al dottor Iavarone per essere stato con noi. Molti di voi mi stanno scrivendo cercando di dare una risposta al quesito di oggi, perché abbiamo due orecchie, ma un ascoltatore mi ha scritto per portare gli occhiali. 800 24 00 24, Roberto dalla provincia di Teramo, buongiorno. Salve, buongiorno a lei, complimenti per la trasmissione, siete bravissimi, simpaticissimi. Grazie Roberto. Molto competenti, a lei e ai suoi ospiti naturalmente. Dottor Franzetti, complimenti. Grazie. Anche a lei, la domanda era carina e le risposte anche. Allora Roberto. Sì, io cerco di esprimermi nel migliore dei modi, non essendo naturalmente del campo, quindi non conoscendo i termini giusti. E io vorrei risolvere una mia curiosità su una, penso, eventuale patologia, che ho un orecchio. Anni fa ho avuto un'otite in spiaggia, quindi andando sott'acqua, compensazioni, tornando su, e l'ho curata con del cortisone, ero fuori, non ero a casa mia, quindi insomma mi sono affidato al medico che ho trovato. Però ho risolto tutto, quindi senza problemi, ho fatto poi visite audiometriche, sento benissimo, non ho nessun problema, però da questo orecchio, quando ascolto suoni molto forti, musica, vado a concerti o ascolto con le cuffie, su determinate frequenze l'orecchio mi va tipo in protezione, mi gracchia, sento praticamente male, come se si tappasse, insomma, come se ci fosse una cassa un po' rovinata. Volevo sapere solo se uno, vero Roberto? Solo quello dove ricordo di aver avuto. Allora, un orecchio che gracchia. Giuseppe dalla provincia di Piacenza invece che cosa ci racconta? Buongiorno, io la vostra trasmissione la sento sempre lavorando in giardino, qua in collina a 800 metri, e mi fate una gran compagnia. Grazie. Io uso un vecchio metodo che usava mio padre per pulire le orecchie. Sì. Avevo una piccola peretta, molto piccola, si riempie di acqua tiepida, poi adagio adagio la inserisco nell'orecchio, poi sprutto l'acqua e l'orecchio diventa pulito, viene fuori tutto il cerume e non fa male. È un fai da te, diciamo. È un fai da te. Dottor Franzetti, un metodo che potrebbe utilizzare anche Roberto della provincia di Teramo, l'orecchio che gracchia, è un orecchio che potrebbe essere un po' disturbato dal cerume o c'è dell'altro? No, non penso che sia un problema di cerume quello del nostro amico Roberto, perché lì c'è stato un fatto traumatico, sicuramente dato da un compenso, da una pressione, da qualcosa che è successo. E siccome la qualità del suono è data da un sistema meccanico di trasmissione, che sono degli ossicini che abbiamo nell'orecchio, che sono sospesi e tenuti in equilibrio da una serie di piccoli legamenti, verosimilmente lì è successo qualcosa per cui in presenza di alcune frequenze, solo soltanto quelle, è alterata la modalità di vibrazione di questi ossicini. E quindi lui ha alterato quella che tutti abbiamo, ma lui l'ha localizzata in modo particolare, che si chiama soglia del fastidio, per cui ciascuno di noi ha dei punti, delle frequenze che sono particolarmente fastidiose e normalmente sono legate alla fisiologia dell'orecchio di ciascuno, anche se più o meno sono localizzati in alcuni punti. Lui probabilmente, avendo avuto questo barotrauma, ha alterato in alcuni punti la fisiologia dell'orecchio, tanto che tutte le volte che gli succede questa soglia del fastidio si esprime in questo modo. Purtroppo non c'è una soluzione a questo, perché la soglia del fastidio fa parte della nostra problemi che avvertiamo riguardo al nostro udito derivano, almeno noi pensiamo, da otiti mal trascurati. Dato che questo è un periodo un po' delicato, ci dà due consigli per evitare che l'otite abbia poi delle ricadute negative sul nostro udito? Ma il problema è capire cosa vuol dire trascurare, nel senso che l'otite può derivare, se parliamo di fattori infiammatori, da due cose: da un problema nasale rinitico, che poi si trasforma in un problema otitico, oppure da una forma che viene dal condotto esterno. Sì. Allora, se non dobbiamo trascurare quella di origine rinitica, vuol dire che dobbiamo curare il prima possibile il naso. Quindi il raffreddore che poi diventa otite. Esatto. Okay. Mentre invece, se abbiamo dei fattori esterni, vuol dire che dobbiamo immediatamente usare gocce di tipo antibiotico, antinfiammatorio, nel condotto uditivo, diciamo farmaci che non sono assorbiti dall'organismo e quindi può usare chiunque, però che ci permettono immediatamente di sterilizzare, di togliere infezioni dal condotto che potrebbero poi nel tempo invece risultare, diciamo, più dannose. Noi parliamo di orecchio, ma qualcuno potrebbe dire rene. Non sto dando i numeri, però voglio solo sintonizzarmi col dottor Maurizio Corradin, medico esperto di medicina tradizionale cinese, direttore del comitato scientifico di Le Fay Resort, che è in linea con noi ed essendo un esperto di medicina tradizionale cinese utilizza una terminologia che a volte a noi sembra diversa. Buongiorno dottor Corradin. Buongiorno a voi e a tutti. L'orecchio è rene, naturalmente non nel significato che la medicina occidentale dà a questo organo. Assolutamente, il rene della medicina cinese è lo stress, è la struttura, la funzione che viene soggetta più facilmente a stress e al quale, in modo un po' colorito, la tradizione cinese dice alla funzione alla quale tutti gli organi attingono per tirare fuori la propria energia, per recuperare la propria energia. Detto in altri termini, tutte le volte che un soggetto è particolarmente stressato, tutte le volte che un soggetto ha una vita piena di rumori, piena di suoni, piena di condizioni emotive molto intense, fa riferimento a questo rene, che però, ripeto, ovviamente non è il rene della tradizione occidentale, fa riferimento a questa funzione per trarre la sua energia. E i classici ci dicono che il rene si manifesta all'orecchio. L'orecchio per la tradizione cinese quindi è l'orifizio periferico del rene. e questa relazione molto stretta nella necessità di fare silenzio, cioè detto in altri termini di trovare il tempo, la modalità, i luoghi dove possiamo stare con noi stessi, dove possiamo destressarci e non essere solo presi da tutto ciò, da tutti i rumori che ci stanno attorno, ma anche dai suoni che avvengono all'interno dell'organismo. Quindi, se vogliamo, è una modalità, una situazione che ci permette di ascoltare il silenzio. Dottor Corradini, grazie per essere stato con noi, la saluto e la ringrazio. Noi andiamo a sentire i mercati e poi il meteo, siamo col dottor Franzetti. Il dottor Corradini ci ha dato un buono spunto. Silenzio. Noi pensiamo a come funziona l'orecchio quando è sottoposto a degli stimoli sonori. In realtà io invito gli ascoltatori a pensare che cosa sentono quando tutto intorno a loro, capita raramente, è in silenzio. Riuscite ad ascoltare il silenzio? Essere e benessere. Parliamo di udito e parliamo di silenzio. Dottor Franzetti, queste due parole hanno una relazione molto stretta, una relazione direi di benessere. Assolutamente, assolutamente. Prima di tutto perché se uno ha la possibilità di sentire il silenzio vuol dire che ha un attimo di pausa e di riflessione su se stesso, e questo al di là dell'udito è una cosa fondamentale. L'altra cosa è che l'orecchio è talmente bello dal punto di vista della sua fisiologia che trasforma tutti dei meccanismi, diciamo, di vibrazione meccanici in una corrente elettrica. Questa corrente elettrica è quella che poi noi comprendiamo a livello cerebrale. Il silenzio fa parte di questa corrente elettrica, per cui noi non avremo mai il silenzio assoluto anche quando non ci sono rumori, ma percepiremo sempre qualcosa dentro noi stessi che ci indica che siamo vivi. Quindi questo è il suono più bello. E quando siamo in silenzio, dottor Franzetti, possiamo avvertire dei rumori che sembrano provenire dall'interno, a volte dall'interno dell'orecchio, i ronzii, i fischi, oppure anche da altre parti del corpo. Ci sono ad esempio dei momenti in cui ci sembra che il cuore abbia deciso di battere, di far sentire la sua voce proprio dentro l'orecchio. Come mai? Certo, perché c'è una conduzione che si chiama conduzione ossea, che non è la conduzione attraverso l'aria che entra nel condotto, che noi percepiamo paradossalmente prima di percepire quella fuori. Però che normalmente, siccome quella esterna è molto più forte come intensità, ci comprime e non ci fa sentire quella che noi sentiamo dentro, tranne in alcuni casi. Però noi, potendo eliminare in alcuni momenti l'impulso che viene da fuori, iniziamo a risentire questi rumori che abbiamo dentro noi stessi. Abbiamo Paola che ci chiama da Treviso, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno. Guardi, proprio a questo proposito, io proprio ieri ho fatto l'eco Doppler alle parti, diciamo, del collo, perché sì, da circa 3 mesi, appunto, quando sono in silenzio, proprio non sento la televisione, niente, e adoro ascoltare il silenzio appena posto. E niente, questo cuore che batte nell'orecchio destro, ma non mi hanno trovato ovviamente niente. Ho fatto l'audiometrico e tutto. È il cuore che le dice: Paola, sto lavorando per te. Paola, intanto il fatto che lei sia negativa a tutti gli esami è una bellissima cosa, perché vuol dire che non ha malattie vascolari importanti, e questo è importante. Se non è ipertesa, cioè se ha provato la pressione e la pressione è normale in questo periodo, è la sua consueta pressione, il vero problema è che tutto ciò è dato da un aumento della pressione nell'orecchio, che è un problema di tipo muscolo tensivo. E quindi può essere legato proprio ai muscoli e alle posizioni. Infatti, cioè, noi vogliamo proprio capire dove teniamo le orecchie. Voi mi direte, come alcuni mi hanno risposto, al lato della testa, servono per bilanciare la testa. C'è anche un ascoltatore che mi ha scritto, mi ha dato questa risposta. Ma ci sono delle situazioni, delle condizioni, delle posizioni durante la giornata che possono in qualche modo interferire o aiutare le nostre orecchie e il nostro udito a funzionare meglio. meglio. Dottor Franzetti, ad esempio la nostra amica, certo, Paola si riferì, no, magari tiene la testa, quando noi andavamo a scuola le nostre mamme dicevano e mi raccomando stai bello dritto quando la maestra spiega, invece noi andavamo giù delle la testa. Una delle cose che mi capita ogni tanto è di vedere persone che lavorano a lungo al computer, spesso chi usa il mouse con la mano destra ha la spalla destra che sempre, tiene sempre la spalla destra più bassa della sinistra, e questa posizione tenuta per ore e ore quando uno non si stacca mai dal computer provoca per esempio dei disturbi posturali che si ripercuotono sulla muscolatura sia cervicale, cioè del collo, sia masticatoria, e questa influisce tantissimo sulla pressione e sulle tensioni muscolari all'interno dell'orecchio. Basterebbe per esempio mettere un libro o qualcosa sotto il gomito di destra in modo da alzare la spalla destra, e questo già correggerebbe la postura e magari farebbe passare tanti disturbi di questo tipo. Andiamo ad Andrea che ci chiama da Pisa. Buongiorno Andrea, mi segnalano che lei vuole rispondere alla domanda perché abbiamo due orecchie. Buongiorno Andrea, auguri, che oggi è Sant'Andrea. Auguri a tutti gli Andrea. Grazie, è vero, fantastico. Andrea, allora, che cos'è? Perché abbiamo due orecchie? Perché per me è la numero 3, che non so di definire, perché mi sembra la più normale, la più più giusta. La più giusta, che era, dottor Franzetti, relativa al... Che era quella che diceva che noi abbiamo un emisfero cerebrale prevalente, quindi sentiamo i toni acuti dell'orecchio dalla parte prevalente e i toni gravi dall'altra parte, ma non è proprio così, Andrea, mi spiace. Questa era un'invenzione del dottor Franzetti. Sì. È il suo nomastico, ma è un po' cattivello. 800 24 00 24, auguri ad Andrea. Passiamo a Giorgio che ci chiama da Padova. Giorgio, buongiorno. Buongiorno a voi Nicoletta e a tutti i suoi ospiti. Grazie. Premetto subito una cosa. Intanto io sono uno che fa uso un po' forse smodato dell'auricolare telefonino. Sì. Nel senso che ascolto Radio 24 anche la notte. Anche si addormenta con noi. Purtroppo sì, è una bella cosa, però ascolto la radio, quello che non posso sentire durante il giorno lo ascolto di sera e magari prendo spesso sonno con l'auricolare all'orecchio. Seconda premessa, ho avuto mia mamma che è stata sofferente di sindrome di Menier. Sì. Ecco, io ultimamente, negli ultimi mesi, ho notato delle piccole fuoriuscite di qualcosa di liquido dalle orecchie. Sì, addirittura svegliandomi di notte, sì, con forte prurito all'interno dell'apparato uditivo. Certo. Ecco. Allora, questo è un allora, sono tre cose. Rapidissimo. Radio 24. Allora, uno, io direi, senza nulla togliere a Radio 24, però non si privi del silenzio notturno, che è una cosa importantissima per le orecchie e per il cervello. Quindi stacchi a un certo punto la radio, magari che si spenga autonomamente, eccetera. La seconda cosa, a riguardo della sindrome di Menière, non c'entra niente né con l'una né con l'altra cosa del liquido che ha detto, e quindi non è detto che lei debba per forza avere la sindrome di Menière, anche se ci può essere una familiarità, si vedrà facendo magari dei controlli, ma soprattutto in base a come lei si sente durante la giornata, e questo richiederà o meno degli accertamenti, non è detto che debba farli. La terza cosa è la fuoriuscita di liquido con prurito all'orecchio, nel 99% dei casi è semplicemente legata a un problema di tipo eczematoso, soprattutto se il liquido è acquoso, è come se fosse acqua. In questo caso può essere curato soltanto con delle terapie locali, con delle gocce e magari controllando bene il sistema gastrointestinale e la dieta. Abbiamo Paolo che ci chiama da Bergamo. Buongiorno Paolo, prima della viabilità. Paolo? Sì, buongiorno. Eccola, a voi. Buongiorno. Volevo fare una domanda al dottore. Sì. Ci sono alcune persone che quando parlano mi fanno malissimo alle orecchie, un dolore fortissimo. E tra questi c'è anche mia moglie, che chiariamo, amo e risposerei dopo tanti anni ancora. Carino. E ma quindi... soprattutto queste persone mi creano un fastidio enorme alle orecchie, un male fisico veramente. Lei Paolo ci sa dire se sono i toni, se sono persone, ecco, se sono voci con toni alti o con toni bassi, dottor Franzetti? Questo può fare la differenza? Sì, sicuramente sì. L'intensità della voce, cioè se uno, soprattutto quelli che gridano o tengono la voce alta, oppure se hanno le voci molto acute. Quali dei due, Paolo? Penso la voce alta. La voce alta. Essere e benessere. Dottor Franzetti, sì. Il nostro amico ha un'alterazione della soglia del fastidio su alcuni toni, su alcune intensità. Questo richiederebbe una valutazione, soprattutto audiometrica, perché spesso questo è indice di un'iniziale perdita o diciamo non conosciuta perdita dell'udito o sentore di iniziale sordità. Andrebbe verificato. Ecco, quali sono le altre situazioni in cui provando questa sorta di fastidio, di difficoltà o insomma questo, noi dovremmo pensare di andare a farci fare un controllo audiometrico? Abbiamo detto questo, il fastidio per i toni alti. Soprattutto il fastidio per i toni alti o soprattutto il fastidio per le intensità, che normalmente prima non ci davano fastidio, perché vuol dire che noi sentiamo di meno alcune frequenze e quindi abbiamo come una iperstimolazione di alcune parti dell'orecchio per altre frequenze. Antonio mi scrive: quando mastico non sento, mi preoccupo? No, non si preoccupa, è una cosa fisiologica, soprattutto se sgranocchia forte. Non riesco a capire da dove arriva l'ambulanza, ci scrive Antonella. Sì, ecco. Questo un controllo ad Antonella o no? Allora, lì dipende, nel senso che se uno non riesce a capire dove arriva l'ambulanza, quando l'ambulanza è molto lontano, essendo un suono molto forte, si percepisce da molto lontano. Ma quando l'ambulanza tende ad avvicinarci, c'è un effetto di direzionalità importante che invece ci dovrebbe far capire dove arriva l'ambulanza. Perché insistiamo sui controlli? Perché siamo proprio nel cuore, si termina domani la settimana nazionale AIRS per la lotta alla sordità. Sono state fatte anche delle visite gratuite in più di 200 ospedali italiani e i dati insomma ci fanno riflettere: un adulto su 7 non ha un udito normale, un adulto su 6 ha un difetto uditivo tale da creare problemi nella vita quotidiana e un adulto su 10 ha una perdita uditiva per la quale è raccomandabile un dispositivo uditivo. In linea con noi abbiamo il professor Giancarlo Cianfrone, che è ordinario di audiologia alla Sapienza Università di Roma. Professore, buongiorno. Buongiorno a lei. Domani si conclude questa settimana, facciamo un po' un bilancio. Gli italiani hanno cura del loro udito? Gli italiani hanno abbastanza cura dell'udito, ma dobbiamo stimolarli su questo argomento, nel senso che le perdite di udito sono ancora una problematica un po' sottovalutata, sottostimata, questo sia dagli italiani sia un po' dalle istituzioni. Quindi bisogna stimolarli. Le nostre campagne che facciamo ormai da parecchi anni servono proprio a stimolare la loro curiosità, tant'è vero che il 40-50% delle persone che affluiscono durante questi eventi nazionali promossi dall'AIRS è la prima volta che si sottopongono a un esame e molti di loro non hanno neanche il minimo sospetto di avere una perdita di udito, che poi magari si rivela facendo un semplice test audiometrico. Quindi è estremamente importante la cura del proprio corpo, significa anche cura dell'apparato sensoriale e tra gli apparati sensoriali sicuramente quello uditivo è uno dei più importanti. Professor Cianfrone, quali novità dalla ricerca? Quando saranno a disposizione queste nanotecnologie che sembra destinate a cambiare, a rivoluzionare l'approccio ai problemi uditivi? Esattamente, guardi, la terapia della sordità, ancora oggi parliamo di sordità neurosensoriali, che sono la maggior parte delle sordità, quindi quelle che colpiscono l'orecchio interno, il nervo acustico. L'approccio farmacologico è molto difficoltoso ancora oggi perché l'orecchio interno è molto protetto e quindi ha una serie di barriere che non permettono ai farmaci di penetrare in questa zona così delicata e così importante. Quindi un filone estremamente promettente è quello, come ha detto lei, delle nanotecnologie, quindi della nanoterapia, sfruttando delle particelle piccolissime. Pensi che sono varie decine di migliaia di volte più piccole di un capello queste particelle, e che fungono da trasportatori di farmaci. Possiamo utilizzare la nuova farmacologia di farmaci protettivi, rigenerativi sulle cellule, e far arrivare questi farmaci esattamente sull'organo su cui c'è bisogno di agire, quindi l'orecchio interno, la chiocciola Sia per problemi uditivi lievi che più severi, che per certo, e la gamma sarebbe estremamente larga di situazioni in cui questo tipo di approccio farmacologico finalmente potrebbe avere successo. Parliamo ovviamente del futuro, ma non tanto prossimo. Lontano, speriamo non prossimo. Non tanto lontano, perché ci sono gruppi internazionali che su questo campo specifico, laboratori molto molto attrezzati, che stanno lavorando, e queste ricerche si affiancano a quelle già iniziate da tempo sulle cellule staminali. Come lei sa, anche quello è un veicolo promettente, ma forse queste nanotecnologie riusciranno a battere nei tempi le ricerche già iniziate. Professore, questa è musica per le nostre orecchie. Grazie per queste buone notizie. Buona giornata, professore. Grazie. Abbiamo Cledis da Milano. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Mi sente bene? Sì. Sì, sì, la sento, okay. Prima di tutto complimenti, la sento sempre. Credo, non lo so, che la risposta giusta sia che abbiamo due orecchie per orientarci bene, diciamo. Direi che è proprio la risposta giusta, che servono per percepire la direzionalità del suono e quindi per orientarci in maniera adeguata rispetto ai rumori, allo spazio, alla vita. E dato che noi siamo internazionali, Cledis, lei di che paese è? Io sono del Brasile. Ecco, me lo dice, le orecchie servono per orientarci in portoghese? Serve para ouvir bem. Grazie, ho capito solo un suono, dovrò andarmi a fare un esame audiometrico dal dottor Franzetti, ma un po' di musicalità mi è arrivata, la musicalità della lingua portoghese. Grazie, abbiamo Giovanna da Roma. Giovanna, buongiorno. Buongiorno, grazie alla conduttrice, grazie al dottore, grazie alla centralinista. Cercherò di essere brevissima, due domandine, una personale e una a carattere generale. Ok, partiamo perché sennò mi sfumano. Carmelo Lauricella. Allora, voglio sapere, in finale ditemi quello che si farà per l'inquinamento acustico, che è una cosa meravigliosa, insomma, da approcciare. Quella personale è nipotina di 2 anni e mezzo su un aereo, appunto, il decollo, eccetera, eccetera, legata appunto alla sua poltroncina di 2 anni e mezzo, gli urli paurosi, caramella, goccetto di latte, eccetera, eccetera. È stata una tragedia, sembrava una bimba sulla sedia elettrica. Che si fa quando il bambino un po' piange? Partita invece per l'America, la pediatra gli ha detto da mettere da provare con una Giovanna, devo stringere. Giovanna, allora, questo bambino. Velocissimo, allora, prima di tutto, sull'inquinamento ambientale ci sono progetti e lavori che sarebbe molto lungo di scrivere, quindi non lo facciamo, ma ci si sta lavorando tanto. Mentre invece sulla questione della bambina, ciuciare, gocce anestetiche nelle orecchie. Sì. E soprattutto magari cercare di farla deglutire prima del decollo dell'atterraggio. I lavaggi nasali preventivi possono in qualche modo servire alle persone che sono, non solo bambine, ma persone che hanno questo genere di lavaggi problemi. Nasali e da usare con molta parsimonia dei congestionanti nasali. Assolutamente, questo lo ricordiamo sempre. Cosa devo dirvi? Che siamo stati bene, dottor Franzetti, mi sono piaciute le domande sull'udito. Io volevo farvi sentire, farei chiudere con un po' di pelle d'oca, che così, se siamo pronti, intanto Carmelo Lauricella, grazie. I rumori fastidiosi, e poi tornate domani. Grazie. Essere e benessere.